Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Sono le 17.07, buonasera a tutti da Deborah Rosciani e benvenuti a Focus Economia. Questa sera ci sono io a tenervi compagnia per il racconto della giornata economico-finanziaria. Siamo reduci dal lungo weekend pasquale e c'era grande attesa, come sapete, oggi per la riapertura dei mercati. La grande osservata speciale era inevitabilmente l'Italia, era Roma, per le questioni legate, come sapete benissimo, perché vi abbiamo veramente snervato con il racconto di queste giornate politiche. Il tema era lo stallo politico che si pensava, alla luce delle decisioni prese nel fine settimana da Giorgio Napolitano, dal Presidente della Repubblica, potessero avere oggi un effetto molto pesante sulla riapertura appunto delle contrattazioni. Così non è stato, perché la mattinata è stata un po' incerta nelle prime battute per Milano, che ha aperto in negativo. Poi c'è stato un cambio di direzione e gli investitori hanno preferito essere più ottimisti sulle future appunto delle decisioni politiche che in Italia verranno prese. È partito il lavoro ufficiale appunto di questi comitati di saggi individuati dal capo dello Stato e oggi Milano, almeno in questo momento, guadagna un punto percentuale. Molto meglio va per le altre piazze europee, con Parigi che segna quasi 2 punti di rialzo, Francoforte più 1,71, Londra più 1,34 e va bene anche Wall Street, dove il Dow Jones segna più 0,7%. Lo spread fra BTP e Bund, il grande termometro, quello che più ci serve per misurare appunto la temperatura del rischio Italia, stamattina era ripartita a ridosso dei 350 punti base per poi arrivare a scendere anche sotto i 340. Quindi tutto sommato oggi ce la svanghiamo così, per dirla con un brutto termine, e speriamo che poi non cambierà più di tanto l'umore degli investitori nei prossimi giorni, ma chiaramente dipenderà molto da quello che succederà. Quali sono i temi che affronteremo questa sera? Oltre a darvi poi il resoconto di questa giornata di borsa, tra l'altro faremo proprio un approfondimento anche su un caso di borsa specifico oggi, che tanto per cambiare è Monte dei Paschi. Il titolo anche adesso perde più di 4 punti percentuali. Sono successe tante cose negli ultimi giorni. Il 2012 si è chiuso con una perdita molto importante per il gruppo. Per la verità poi la cifra che è stata comunicata era anche abbastanza nota ed è quasi equivalente al Monti Bond appunto che il gruppo senese ha chiesto per far fronte alla propria situazione finanziaria proprio estremamente precaria. Però ci sono state anche altre situazioni appunto un po' problematiche per il gruppo, che sono state enfatizzate dalla comunità degli investitori nelle ultime ore. Evidentemente il gruppo, che peraltro riunisce l'assemblea degli azionisti a fine mese, ha fatto circolare un documento da cui si evince che sono stati ritirati molti soldi dalla banca da parte di molti depositanti, si parla di alcuni miliardi. Il gruppo, a causa delle operazioni Santorini, Alexandria, ha avuto un danno reputazionale enorme, incredibile, e oggi giù raffica di giudizi negativi da parte di molte società di investimento. Tutto questo oggi pesa in borsa. Il gruppo addirittura stamattina perdeva oltre il 10%, ha avuto una raffica di sospensioni per ribasso, si è ripreso poi nella seconda parte della giornata, è arrivato addirittura a perdere poco più di 2 punti percentuali, adesso torna a flettere un po' di più, ma in ogni caso montagne russe che probabilmente continueremo a vedere ancora per un bel po' di tempo per Rocca Salimbeni. E tutto questo ha condizionato anche le altre banche, che però adesso si stanno riprendendo. Questo è un po' il quadro di borsa, ne parleremo più tardi. Con che cosa apriremo oggi la nostra trasmissione? Con molte notizie che arrivano da Roma, perché intanto è pronto il decreto salva debiti, quel provvedimento molto importante che centinaia di imprenditori italiani aspettano, quelli che hanno effettuato lavori per la pubblica amministrazione che non sono stati mai pagati. Adesso c'è un provvedimento che sbloccherebbe una parte di questi soldi appunto che l'imprenditoria italiana aspetta da tanto tanto tempo. Oggi c'è stata la relazione di aggiornamento dei saldi di finanza pubblica che ha chiarito anche un po' di passaggi tecnici per rendere trasparente l'iter di pagamento appunto nei confronti di questi imprenditori da parte della pubblica amministrazione e regioni in particolar modo, privilegiando il cosiddetto criterio cronologico delle fatture. Cosa vuol dire? Poi ce lo spiegherà il collega da Roma Dino Pesole, che ci racconterà anche il dettaglio di tutti questi tagli alle indennità dell'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati, che è stato deciso oggi appunto, e quindi ancora risparmi per quello che riguarda la politica e notizie che arrivano soprattutto dal Parlamento. Speriamo appunto che questo fornisca anche un buon esempio per continuare su questa strada anche a tutti gli altri organi istituzionali, che si spera prendano decisioni analoghe prossimamente come segnali. Poi qualcuno continua a dire: sono pochi soldi, non sono lì i problemi del costo della politica, però insomma 1 milione di euro qua, 2 milioni là, e alla fine cominciamo a fare anche diverse centinaia di milioni di euro, fino anche ad arrivare a qualche miliardino. Non ci siamo ancora a questi livelli, ma chissà mai che non ci si arrivi al più presto. Parleremo anche di Cipro poi nel corso della giornata, perché oggi qua si è dimesso il ministro delle Finanze, è stato subito rimpiazzato. Oggi, dopo la chiusura che è in corso dal 15 marzo, ha riaperto la borsa di Cipro. Nelle prime battute stamattina perdeva 2,5 punti, e poi c'è l'ingresso ufficiale in azione della commissione d'inchiesta che è stata nominata giovedì scorso dal governo di Nicosia per far luce su eventuali responsabilità civili ma anche penali nella crisi del sistema bancario dell'isola, che ha portato Cipro sull'orlo della bancarotta. Insomma, anche stasera, anche se siamo ancora un po' attaccati alla festa pasquale, i temi non ci mancano. 349-238-6666 il numero per i vostri sms se vorrete commentare il panorama dei temi di oggi con noi. Adesso andiamo subito alle altre notizie in breve. Allora, cominciamo come sempre con le materie prime, con l'andamento delle quotazioni delle cosiddette commodities. L'oro è risalito sopra la soglia dei $1,600 l'oncia oggi, mentre il petrolio a New York ha aperto in calo a $96,57 al barile. I prelievi ai bancomat in Spagna nel 2012 sono scesi ai livelli minimi dal 2006, in uno degli ennesimi segnali della crisi in corso nel paese. Questi dati risultano da alcune cifre fornite dal Banco di Spagna, secondo cui lo scorso anno i prelievi appunto sono scesi del 2,6% a 110 miliardi di euro, 3 miliardi in meno che nel 2011, con un ribasso particolarmente concentrato nell'ultimo trimestre dell'anno. E qua subito mettiamo a dura prova le pronunce appunto della giornalista che conduce Focus Economia, poi ci faremo dare qualche chiarimento in più dal nostro Roberto Bongiorni, che è stato per settimane appunto a Cipro. Allora, il ministro delle Finanze cipriota Michalis Sarris ha annunciato oggi le sue dimissioni, e qui siamo andati bene. Haris Georgiades è stato nominato ufficialmente ministro delle Finanze in sostituzione appunto di Sarris. Lo ha annunciato oggi la presidenza della Repubblica Cipriota. Intanto, quali sono le altre novità arrivate oggi? Che la Troica, questo organismo formato da esponenti della Banca Centrale Europea, Fondo Monetario e Unione Europea, avrebbe autorizzato la Banca Centrale Cipriota allo sblocco del 10% dei depositi della Bank of Cyprus. Quanto scrive oggi Bloomberg, l'Istituto Centrale sta provando anche a convincere la Troica a scongelare il restante 40% dei depositi non oggetto del prelievo forzoso per la ristrutturazione del sistema bancario. Oltre a questo, oggi c'è stata anche quella che ci sembra una buona notizia, poi cercheremo di interpretarla meglio. Il governo di Cipro ha ottenuto 2 anni di tempo in più, e cioè fino al 2018, per rispondere alle condizioni definite dal piano di aiuti concordato con l'Eurogruppo. Lo hanno annunciato a Nicosia fonti della Presidenza della Repubblica, precisando che l'intenzione è di ridurre le pressioni sull'economia di Cipro. La Commissione europea non ha intenzione di valutare se concedere un'estensione per il taglio del deficit sotto al 3% per nessun altro paese oltre ai 3 già annunciati, che sono Spagna, Portogallo e Francia. Così oggi un portavoce della Commissione europea, che gli chiedeva se anche a Italia e Olanda potesse essere dato più tempo. Dati macroeconomici arrivati oggi dall'Eurozona. L'indice PMI, che misura l'attività manifatturiera, a marzo è sceso a 46,8 punti nel dato definitivo rispetto ai 47,9 di febbraio. Le previsioni erano per un calo a 46,6 punti, quindi in realtà il dato ci sembra migliore delle attese. Il tema è che però questo dato è ancora sotto i 50 punti e questa è una spartiacque fondamentale, perché la soglia dei 50 punti separa l'espansione dalla contrazione del settore, per cui l'attività manifatturiera dell'Eurozona è ancora in evidente contrazione. A quanto ammonta questo dato in Italia? A marzo è sceso a 44,5 punti dai 45,8 della rilevazione precedente, però anche in questo caso quali erano le attese? Erano per un dato migliore, per una lettura 45,3 punti. Ancora brutte notizie invece riguardano la disoccupazione che a febbraio, e anche queste sono statistiche che arrivano da Bruxelles, resta stabile a livello record del 12%. Sono 19,071 milioni i senza lavoro. Nel mese scorso Eurostat aveva indicato per gennaio un dato all'11,9%, poi rivisto al 12%. C'è un leggero calo in Italia della disoccupazione dall'11,7% di gennaio all'11,6% nel mese successivo. E tra l'altro ricordiamo che con questo 11,7% in gennaio in Italia si era toccato davvero il massimo storico. Speriamo che questa piccola inversione di tendenza che si vede per il mese di febbraio possa essere duratura e più consistente, continuare anche per i mesi prossimi. Però cosa succede? Che naturalmente quel dato più preoccupante di tutti, che è la disoccupazione giovanile, non ha registrato vistosi segnali di miglioramento. La disoccupazione giovanile è quella che viene indicata per quella fascia sociale che sta fra i 15 e i 24 anni. A febbraio la disoccupazione appunto per questa fascia d'età è risultata pari al 37,8%. Abbiamo avuto anche in questo caso un calo dello 0,8% rispetto a gennaio, quando anche in questo caso per questa voce era stato toccato il massimo storico. Un'ultima notizia: l'hamburger al prezzo di un caffè. McDonald's ha abbassato il prezzo del suo prodotto simbolo a 90 centesimi, sotto la soglia di un euro su cui si era attestato dal 2004, senza cambiarne ricetta e qualità. È stato annunciato in questo modo appunto questa notizia, questo provvedimento, questa scelta commerciale, in una nota dello stesso gruppo americano. Il motivo per questa scelta: in un momento difficile come quello che l'Italia sta attraversando, l'azienda ha deciso di dare un segnale molto concreto di vicinanza ai consumatori, ha spiegato la catena di fast food. Adesso ci fermiamo con le notizie in breve, con le notizie curiose e divertenti. Vi rimando a fra qualche minuto. Adesso direi di andare subito al primo approfondimento di oggi e andiamo un po' a sentire che cosa sta accadendo in queste ore a Roma. Aspettiamo di collegarci telefonicamente con il collega del Sole 24 Ore, Dino Pesole, e intanto qual è la notizia che vorremmo approfondire con lui oggi. Oggi il Parlamento si pronuncia sulla nota del governo dedicata all'aggiornamento delle stime di bilancio per consentire il rimborso dei debiti della pubblica amministrazione verso le imprese italiane. Insomma, un po' di acqua fresca che vorrebbero le imprese, che giustamente hanno fatto molti, molti lavori negli ultimi anni appunto per la pubblica amministrazione, hanno fornito beni e servizi ma non sono state pagate, dette in maniera molto brutale. Sapete bene che la questione è questa. Nei giorni scorsi la Banca d'Italia ha aggiornato ulteriormente la cifra Questi debiti ammonterebbero a 91 miliardi di euro, nella metà dei casi scaduti da oltre un anno. Allora, qual è il piano del governo? Anche su questo ci siamo soffermati più spesso nelle ultime settimane, ma ribadiamo appunto quali sono i punti focali del provvedimento che il governo dovrebbe varare appunto nelle prossime ore. Il piano prevede rimborsi per 40 miliardi di euro in due tranche. La prima nella seconda metà di quest'anno, la seconda nel 2014. Allora, qual era il problema anche nell'erogare questo denaro? È che c'era il problema del tetto del deficit del 3% fissato dai trattati europei, che non dovrebbe essere sforato, e naturalmente da Bruxelles si contestava: se voi sganciate questi soldi, questo parametro viene di nuovo superato, sforando quindi i trattati europei. Questo problema è stato superato negli ultimi giorni. Una volta ottenuto il via libera di Camera e Senato, il governo deve essere adesso nelle condizioni di varare il disegno di legge con le modalità dei rimborsi. Dino Pesole, buonasera. Buonasera. Eccoci qua, abbiamo fatto un po' il riassunto della situazione. È pronto il governo per varare il provvedimento domani o slitterà ancora di qualche giorno? No, sembra proprio che sia imminente, dovrebbe essere domani o più tardi dopodomani, perché proprio in questi minuti la Camera ha dato il via libera alla risoluzione con la quale si modificano i saldi di finanza pubblica, e dunque è il passaggio necessario per aprire gli spazi finanziari per questi 40 miliardi in due anni che dovrebbero essere concessi alle imprese. Dopodiché il governo dovrà definire un decreto con il dettaglio dell'operazione, quindi i tempi dovrebbero essere a questo punto abbastanza rapidi, tenendo conto che quel che dicevi rispetto al 3%, questo non è proprio un dettaglio, perché se noi non manteniamo il deficit sotto il 3% in maggio, la Commissione europea non delibera l'uscita dell'Italia dalla procedura del disavanzo eccessivo. Si potrebbe dire che questo è un dettaglio, in realtà non lo è, perché se l'Italia non esce dalla procedura del disavanzo eccessivo non potrà fruire, ad esempio nel 2014, degli altri margini di flessibilità previsti dal cosiddetto braccio preventivo del patto di stabilità. Ad esempio mi riferisco a tutta la parte degli investimenti produttivi, quindi bisogna stare molto attenti a calibrare gli interventi in modo da non eccedere il tetto massimo del 3%. Comunque, insomma, la strada è abbastanza spianata. È spianata. Quali saranno, se ce lo vuoi ribadire, Dino, le procedure tecniche anche per rendere trasparente l'iter di pagamento? Abbiamo detto appunto che saranno sbloccati in due tranche 40 miliardi di euro. Quali sono i soldi che arriveranno subito? A quali tipo di imprese? In che tempi adesso? C'è questa questione del privilegiare il criterio cronologico delle fatture, leggo. Che cosa vuol dire? Questo dovrebbe essere uno dei criteri indicati nel decreto, attraverso un esame preventivo, una specie di mappatura, chiamiamola così, di tutta questa massa di crediti che, peraltro, sottolineo, non è ancora stata mai censita, perché la stima della Banca d'Italia, aggiornata proprio la settimana scorsa, parla di 91 miliardi di debiti commerciali della pubblica amministrazione, pregressi ovviamente, e sono debiti che riguardano tutte le amministrazioni pubbliche nei confronti di tutti i fornitori, quindi siano essi soggetti privati, professionisti. Allora, la linea del governo, stando a quello che ha anticipato il ministro Grilli il 28 scorso alle Camere, è che ci saranno varie tranche. Nella prima si privilegeranno in prima battuta le imprese e i professionisti, e poi si agirà nei confronti delle banche, perché ricordiamolo, molti di questi crediti sono stati ceduti alle banche attraverso il factoring, ad esempio, e dunque dovranno essere rimborsati alle banche. Non è un'opzione, è anch'esso un obbligo. Quindi si tratta di restituirli, si parla di 9, 10, 11 miliardi al sistema bancario, e comunque il governo ha deciso di liquidare in una seconda battuta. Certo. Tra l'altro ci sono delle banche che si sono esattamente specializzate anche in un lavoro di questo tipo, ma chiaramente non per questo non vanno appunto rimborsate, no? Di questi crediti. Certo, questo occorre dirlo anche a beneficio di molte critiche che sono emerse in sede di dibattito parlamentare. Ho sentito molti rilievi, ad esempio critici del Movimento 5 Stelle che dice che in questo modo si favoriranno ancora una volta le banche. Questa è un'inesattezza, perché in realtà in questo caso le banche hanno avuto una funzione di intermediari e dunque a fronte di una cessione di un credito non possono che essere rimborsati, perché sarebbe pericolosissimo che nel nostro paese si affermasse il principio che le banche non vengono rimborsate, per carità. Quindi questo va fatto, andrà fatto con i tempi dovuti. Dopodiché si apre una Con il fatto che non vengono neanche nella graduatoria che dicevi poco fa, non vengono neanche rimborsate per prime, continuano ancora ad assumersi rischi in questa fase, per cui adesso, non per difenderle per carità del cielo, però in ogni caso continuano ancora a rappresentare un po' di cuscinetto, no, in una situazione molto precaria per molte aziende. Chiusa parentesi, Dino, vai, dimmi. Certo, no, ma anche perché questo poi fa parte di una vulgata che secondo me va un attimo spiegata, cioè la vulgata è che sono le banche e gli istituti finanziari i primi responsabili della crisi, qui bisognerebbe aprire tutta una discussione, non è questo il luogo. Invece quello che forse va ricordato è che al di là dell'impatto, che pure non è irrilevante, sia sul deficit che sul debito, la vera scommessa di questa partita sulla liquidazione dei debiti pregressi da PA è se si riuscirà attraverso questa emissione di liquidità finalmente a dare un po' di ossigeno alle imprese. Se questo avverrà, la stima del governo è che ci sarà uno 0,2 di PIL in più quest'anno, il che vuol dire che invece di scendere all'1,5 caleremo all'1,3, e soprattutto l'anno prossimo, che dovrebbe esserci un impulso, tanto che dallo 0,7 preventivato si passerebbe all'1,3. Questo, devo dire, è un po' una scommessa, perché non è detto che solo per effetto di questa emissione di liquidità riparta l'economia, ma comunque è un'operazione che comunque va fatta in ogni caso. Certo. È un obbligo. Allora, intanto c'è un dato che mi è stato diffuso poco fa dalle agenzie, Dino, è un'elaborazione di un'impresa su dati Istat e Banca d'Italia, visto che i dati non sono mai esattamente chiari. Quello che è certo è che abbiamo lo stock di crediti vantati appunto dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. 91 miliardi di euro, l'ultimo dato appunto della Banca d'Italia. Il numero delle imprese italiane che vantano questi crediti con la pubblica amministrazione sono oltre 215.000, e per ciascuna di esse la media degli arretrati dei pagamenti è pari a 422.000 euro. Quindi, per il solito ragionamento della media, immaginate anche le aziende che si trovano in situazioni più problematiche, appunto, quanti soldi devono aver indietro. Nell'industria è pari all'1,2% la quota di imprese in credito con lo Stato. Ci sono 5.436 aziende che aspettano di veder saldata una fattura. Nelle costruzioni il 16%, mentre il record è nei servizi con 109.131 imprese. E questo un po', aggiungiamo appunto un po' di dati al ragionamento che abbiamo fatto fino a questo momento. Dino, noi fra un po' devo salutarti, però volevo chiederti anche qualche notizia in più rispetto a questi tagli per 8.5 milioni di euro che oggi sono stati decisi dall'ufficio di presidenza di Montecitorio. Risparmi su che cosa? Su che cosa viene fatta questa sforbiciata? Solo su alcune voci, diciamo, che compongono il complesso degli stipendi, sono indennità accessorie, spese di funzionamento, che comunque messe insieme determinano quelle cifre che poi nel corso dei mesi hanno fatto gridare un po' allo scandalo, quando si è visto che i parlamentari guadagnano 15.000 euro al mese. In realtà non è frutto solo dello stipendio, quanto di un'altra serie di indennità accessorie, ad esempio quella per i cosiddetti portaborso, per le auto di servizio, per l'alloggio di servizio. Allora, queste misure decise oggi incidono per il 30% su queste, come dire, voci accessorie dello stipendio, e che comunque credo che sia un segnale importante. Non è che con questo risaniamo il bilancio dello Stato, però mi sembra che una risposta a quanti continuano ad accusare, insomma, la classe politica di Sperperi, e secondo me molto a ragione, possa essere un primo elemento, un primo segnale che si va in un'altra direzione. Questo non è l'ambito, Dino, che deve essere concordato con il sindacato, perché leggevo su qualche giornale questa mattina che naturalmente molte sigle sindacali sono già in assetto di guerra proprio per questa operazione di riduzione che in Parlamento appunto questo non è... No, assolutamente no, perché queste sono delle decisioni che spettano unicamente agli uffici di presidenza e a questori di Camera e Senato, perché sono relative al funzionamento proprio di organismi che hanno la loro autonomia funzionale e amministrativa. Tanto che io ricordo che quando il ministro Tremonti nello scorso governo dispose il taglio lineare per tutti i dipendenti pubblici, spiegò che non era possibile estenderlo agli organi costituzionali che sono invece fanno fronte attraverso dei loro ordinamenti. Quindi occorrono delle decisioni degli organismi indipendenti di Camera e Senato, e questo mi sembra che stia avvenendo. Anche il Quirinale l'ha fatto. Per 17:37 fra 10 secondi, ancora buonasera da Deborah Rosciani insieme a voi per il resoconto della giornata economico-finanziaria. Adesso è tempo di raccontarvi cosa è successo oggi in borsa. Le notizie divertenti ve le diamo tra poco, divertenti per modo di dire, anche oggi ce n'è di materia per così farsi un po' male al fegato, tra cui il tema dei compensi per i grandi manager di Wall Street, ma ne parleremo tra poco. Adesso invece la giornata di borsa, vi dicevo che si sta avviando ad una chiusura molto positiva per Parigi e Francoforte, che aprono decisamente bene il mese di aprile, un rialzo di quasi 2 punti percentuali, per Londra più 1,33%. Wall Street continua a correre, ormai il mercato americano continua a viaggiare ad aggiornare i suoi massimi dal 2007, per il Dow Jones è più 0,7%, per lo Standard & Poor's è più 0,69%, hanno la stessa percentuale di crescita, 0,69% entrambi gli indici americani, Nasdaq è più 0,85%, Milano più 1,41% sul FTSE MIB. Buonasera Cio Condina, Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Ciao, buonasera a tutti. Allora Cio, io tra poco, dopo il collegamento con te, ho un approfondimento su Monte dei Paschi, però magari cominciamo già ad incuriosire i nostri ascoltatori che si sono persi la seduta di Rocca Salimbeni. Tutto sommato ci si può accontentare di questa chiusura a meno 2,81%, data la prospettiva che si era aperta con l'apertura questa mattina, appunto. Assolutamente, Monte dei Paschi aveva aperto con un rosso superiore al 10%, poi pian piano un po' recuperato, tanto che alla fine poi non è stato neanche il peggior titolo di Piazza Affari, che è stato Mediobanca, che ha ceduto il 3%, Monte dei Paschi meno 2,8%. Ricordiamo che giovedì a mercati chiusi la banca senese ha annunciato i dati definitivi del 2012, che sono appunto attestati con una perdita netta di oltre 3,17 miliardi, ben sopra l'attesa di un rosso di poco più di 2 miliardi. Insomma, quindi dati peggiori delle attese, il mercato questa mattina ha immediatamente punito la banca senese, che comunque ricordiamolo è già da un pezzo sui minimi storici per quanto riguarda le quotazioni. Poi cercheremo di capire anche come mai la perdita comunicata è stata, anche se ne abbiamo letto insomma questi giorni, svalutazioni molto più alte del previsto, insomma un'operazione anche di pulizia di bilancio molto drastica e radicale che l'attuale management, i vertici attuali Viola e Profumo stanno appunto portando avanti. C'è poi tutto il tema del danno reputazionale che ho già preannunciato, e già su questo tema si sono scatenati anche molti ascoltatori dicendo se il danno reputazionale c'è stato, colpa anche dei media che hanno male raccontato le vicende di Monte dei Paschi delle ultime settimane. Come al solito CEO, è colpa nostra. Io tra l'altro mi è preso anche un po' di andare a suggerire a molti ascoltatori di andarsi a ripescare qualche trasmissione fatta da noi su questo argomento, che era in una direzione totalmente rassicurante, soprattutto per i piccoli correntisti, e necessariamente è stata un po' più preoccupante per gli azionisti che oggi si confrontano con un titolo che vale 18 centesimi di euro, poco al di sotto. Anzi, oggi c'è stato anche questo drastico giudizio di Exane, un broker di BNP Paribas, che ha detto per noi vale 10, e poi insomma ne parleremo. Comunque, detto questo, se non altro non abbiamo gli stipendi dei manager, però dai. Chiusa parentesi, allora Mediobanca l'abbiamo detta, Monte dei Paschi l'abbiamo detta, Mediolanum ma meno 2,24%. Allora è stata abbastanza forte la notizia che è arrivata nella seconda parte del pomeriggio, quando si è appreso che il fisco chiede alla società guidata appunto da Ennio Doris qualcosa come 344 milioni di euro per la gestione delle attività irlandesi. Allora, questa notizia in realtà esce dal bilancio depositato dalla società, per cui è un atto trasparente, ma evidentemente gli investitori, gli analisti se ne sono accorti solo ora leggendolo un po' meglio. Sì, il bilancio diciamo che oggi è stato diffuso, cioè è stato pubblicato il bilancio definitivo e quindi andandoselo a spulciare poi insomma nella nota integrativa, che è poi la parte in cui diciamo viene illustrato più nei dettagli tutto il bilancio, tutte le voci del bilancio, è stato appunto detto che c'è questo max accertamento che riguarda, che sostanzialmente il fisco chiede a Mediolanum di pagare qualcosa come 344 milioni di euro, che non è una cifra indifferente. Quest'anno Mediolanum aveva chiuso con utili record praticamente più che quadruplicati rispetto all'anno scorso, ma ricordiamo anche che non è la prima volta che Mediolanum incorre in diciamo in incidenti di questo tipo. Già negli anni scorsi il fisco aveva effettuato delle contestazioni appunto al gruppo guidato da Ennio Doris. E quindi poi bisognerà vedere se il gruppo pagherà o se va anche a fare qualche ricorso, se contesta. O magari arriva una transazione, come esatto. Spesso succede in questo. Detto questo, comunque oggi il titolo poi sul finale ha pagato anche questa notizia. Andiamo un po' a vedere di là chi si è comportato bene. Prysmian più 3,61%, Salvatore Ferragamo neanche a dirlo, più 3,15%, ha ritoccato nuovi massimi il gruppo? Quasi. Salvatore Ferragamo ha dei massimi a 22,7, oggi è chiuso a 22,26, comunque ricordiamo che sono massimi storici per un gruppo che della quotazione che ormai risale quasi due anni fa, ha veramente diciamo sicuramente più che raddoppiato il valore. Tra l'altro abbiamo chiuso il primo trimestre dell'anno proprio settimana scorsa, e probabilmente credo che si sia trattato del miglior titolo in assoluto in questo frangente dell'anno. Adesso non me lo ricordo a spanne, magari c'è sotto lo ricordo. Guadagnato più del 30%, ecco. Diciamo che oggi nello specifico c'era il giudizio positivo di una banca, di una delle principali banche d'affari, HSBC, che ha sottolineato come in Italia, soprattutto in Europa, nel settore del lusso Salvatore Ferragamo sia quello che ha i margini di sviluppo diciamo più interessanti. Prysmian invece, che è stato il miglior titolo, cosa è successo? Anche qui c'è un giudizio positivo da parte di Goldman Sachs, che come sappiamo viene considerata forse la banca d'affari più influente del mondo. Goldman Sachs, sì, quella che... anche con i manager più pagati, poi dopo vado a raccontarla anche questa storia chiusa a proposito di manager con delle remunerazioni molto alte. Appunto ha alzato le stime sugli utili 2014-2015 del gruppo di cavi, quindi il mercato immediatamente ha reagito positivamente a questa notizia, sono affluiti gli acquisti, infatti è chiuso in rialzo del 3,6%. STM più 3 punti, Lottomatica più 2,95%, è stata una giornata altalenante per Generali, Leone di Trieste poi chiude sul finale con un più 2,88%, Telecom Italia più 2,81%, poi vedremo gli altri migliori titoli, ma oggi è stata un po' in tutta Europa una giornata molto positiva per le telecomunicazioni europee, per qualche notizia in particolare? Assolutamente sì, c'è stata, diciamo, ci sono queste indiscrezioni per ora su un'offerta, su un'OPA, quindi un'offerta pubblica da parte di un'accordata composta da Verizon e AT&T per Vodafone, un'offerta che comprenderebbe rispetto ai valori di borsa di oggi di Vodafone un premio del 40%, quindi insomma un premio decisamente significativo, e che valuterebbe la compagnia 245 miliardi di dollari. Come spesso accade in situazioni di questo tipo, poi l'intero settore a beneficiare perché partono diciamo le speculazioni, le scommesse sul fatto che magari questa potrebbe essere una di più mosse destinate a un riassetto dell'intero settore europeo delle telecomunicazioni. Infatti oggi lo stocks di settore europeo delle TLC ha guadagnato il 2%, ne ha beneficiato ovviamente anche Telecom in rialzo del 2,8%. Vedo che tu sull'agenzia che hai scritto poco fa proprio per Radiocor la chiami la febbre da risico nelle telecomunicazioni, che oggi ha spinto l'Europa, che quindi non ha guardato ai temi politici italiani ma a qualcosa di più attinente al tema finanziario, del quale forse dovrebbe preoccuparsi un po' di più, anche se poi chiaramente il fattore politico condiziona molto anche le scelte di investimento. C'è o abbiamo altre notizie da dare o abbiamo terminato? Abbiamo terminato. Benissimo, noi intanto aspettiamo peraltro questa settimana anche il direttivo della Banca Centrale Europea, chissà se si prenderà qualche decisione sui tassi, ma sono attesi tassi invariati perché, sempre come scrivono i colleghi di Radiocor, l'imperativo è calmare i mercati adesso. Ciao, grazie per essere grazie stato con a noi. Voi. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, come promesso, volevamo dedicare qualche minuto in più a questa giornata che è stata molto pesante per Banca Monte dei Paschi, molto pesante per come si era messa all'inizio della seduta. Poi sul finale c'è stato un recupero molto forte, molto consistente per Rocca Salimbeni, chiusura a meno 2,81% a 17,98 centesimi di euro. Allora, il gruppo, come sapete, naviga in acque agitate da molte settimane, da quando è scoppiato il caso Alexandria Santorini, l'operatività su prodotti derivati per coprire tutte le perdite legate all'acquisizione di tanti anni fa, quella di Banca Antonveneta, poi di acqua sotto i ponti ne è passata tantissima fino alla situazione attuale. Il gruppo ha fatto sapere appunto settimana scorsa di aver chiuso il 2012 con una perdita netta di 3 miliardi e 170 milioni di euro, molto più alta rispetto a quanto analisti e investitori avevano immaginato, e oggi subito il mercato ha risposto vendendo a piene mani il titolo, anche perché è arrivata stamattina, contestualmente all'apertura, una raffica di giudizi negativi appunto da parte di diverse case di investimento. Quella che è stata definita shock di considerazione è stata quella espressa da Exxon, un broker di BNP Paribas, che ha detto che il titolo vale praticamente quasi la metà rispetto alle quotazioni attuali, poco più di 10 centesimi di euro. Perché? Perché Exxon dice il gruppo non sarà in grado di liberarsi del supporto dello Stato, verso cui è debitore per 3,9 miliardi, i famosi Monti Bond, prima del 2019. Fino a quella data il gruppo non potrà dare dividendi agli azionisti e avrà tutta una serie anche di altri problemi. Ma non c'è solamente questo, di motivo tra quelli che hanno scatenato oggi questa pioggia di vendite su Monte dei Paschi. Io ringrazio e saluto, perché tutti gli altri motivi ce li racconta insieme alle sue interpretazioni, il collega Salvatore Gazziano. Buonasera Salvatore. Buonasera a tutti. Direttore di moneyreport.it. E allora, io ho detto di questo giudizio di Exxon, BNP Paribas, ma per la verità di cose ne sono successe un po' tante nelle ultime ore, nelle ultime settimane appunto su Monte dei Paschi. Peraltro stamattina qualcuno ha anche puntato il dito sulla questione della fuga di depositi per alcuni miliardi, che è un po' il biglietto da visita con il quale poi il management va all'assemblea degli azionisti a fine mese. Sì, questo è sicuramente un mistero misterioso che si sussegue da diverse settimane, perché già all'ultima presentazione degli analisti un analista aveva domandato in realtà com'era la situazione dei depositi e se vi era una fuga, e naturalmente, tra virgolette, il management di Monte dei Paschi di Siena aveva detto che nulla di preoccupante, tutto era tranquillo. In realtà poi negli ultimi comunicati e le cose che sono uscite fuori, si parla ufficialmente della società che un po' hanno la situazione è un po' migliorata, però in ogni caso si parla di alcuni miliardi di euro che sono stati ritirati nelle ultime settimane e gli ultimi mesi, e quindi essere così generici a fronte di mercati che vogliono sapere, soprattutto su una banca come questa, dove ricordate i risultati che ha pubblicato, che ha anticipato proprio in questi giorni, sicuramente vi è poca, diciamo, trasparenza su un dato così importante. Tra l'altro ricordiamo che già lo scorso anno comunque questa banca ha visto diminuire i depositi di circa 7,5 miliardi di euro, e una cifra simile, importante e significativa era stata persa come depositi anche nell'anno precedente. Mm-hmm. E quindi da questo punto di vista questa notizia non viene vista bene, perché è evidente che se la banca perde i depositi in maniera crescente a fronte di anche notizie come quelle che si stanno susseguendo, le possibilità di rimborsare i tre Monti Bond, ma al di là, e adesso i Monti Bond, ma al di là di quello, di riuscire a fare il suo mestiere e tornare alla redditività, si allontana sempre di più, come dimostra il report che hai citato prima di Exxon Paribas. Mm-hmm. No, tra l'altro poi stamattina ce ne sono state anche altri due di giudizi. Sì. Kepler ha ridotto il target di prezzo a 13 centesimi di euro dai precedenti 22. Per Deutsche Bank invece il titolo Monte dei Paschi vale 15 centesimi dei precedenti 18. Scendiamo sempre di più, ma niente a che vedere con questi 10 indicati da appunto Exxon. Sì, tra l'altro io per curiosità sono andato quest'oggi a cercare, perché un broker americano qualche mese fa aveva dato un report, uno dei pochi report positivi su Monte dei Paschi, addirittura aveva detto target price 0,48. Mm. Non, Alfa Value, mi pare che si chiami questo broker americano, e non ho avuto notizie che abbia aggiornato, sia stato pubblicato poi una revisione, perché spicca comunque per ottimismo. Che l'aveva dato già alcuni mesi fa, poi il titolo si è inabissato. Un broker che evidentemente l'hanno visto gli americani in Monte dei Paschi di Siena. Evidentemente molto confidente anche nella gestione degli attuali vertici, che ancora sono alle prese appunto con una pulizia di bilancio che è evidentemente molto importante, no? Rispetto a tutto quello che c'era da mettere a posto con quello che hanno trovato, Viola e Profumo. Detto questo, a fine mese c'è l'assemblea degli azionisti, Salvatore, che dovrà anche decidere sull'azione di responsabilità contro gli ex vertici del gruppo. È rilevante ai fini della quotazione anche questo appuntamento e questa circostanza? Ma sicuramente, adesso diciamo che per anni l'ex presidente di Monte dei Paschi di Siena, Giuseppe Musser, è stato considerato un dio a Siena, e non solo a Siena, tant'è vero che lo abbiamo visto nominato anche presidente dei banchieri. Ora la sua stella si è proprio eclissata, come succede purtroppo nel campo della finanza, e dove capitano cose di questo tipo, che lasciano sicuramente perplessi, perché è difficile pensare che una banca di questo tipo, con un consiglio di amministrazione, un consiglio di sorveglianza, società di revisione, oggi scoprono, e solo adesso, che Mussari, come nelle accuse che vengono formulate, verranno formulate a fine mese, sia stato colpevole con la sua leadership di voler occultare tutte le perdite della banca, che abbia impiegato, abbia impedito il conseguimento di un utile di esercizio. Diciamo, accuse molto pesanti, ma che francamente da persona che analizza e osserva il mercato, come peraltro puoi fare anche tu, sicuramente lasciano un po' perplessi, perché comunque non voglio certo essere l'ultima persona, visto che da anni ho scritto su Monte dei Paschi mettendo in guardia coloro che seguivano questo titolo e pensavano che fosse una banca su cui investire soprattutto a livello azionario tranquillamente, però è veramente difficile comprendere come solo adesso si scopra tutto questo e addirittura si chiede un'azione di responsabilità. Peraltro ricordiamo una cosa che è importante: io adesso ho letto le dichiarazioni di Viola, quest'oggi abbiamo letto bilancio di pulizia da parte di Monte dei Paschi di Siena, ma non più di un anno fa Monte dei Paschi aveva licenziato un altro bilancio con una perdita anche quella record di 4 miliardi di euro. Allora non c'era ancora Profumo, era stato l'ultimo bilancio sotto l'insegna di Mussari, ma c'era già Viola, e anche allora si parlò di bilancio di pulizia. Quindi qua le pulizie evidentemente a Siena continuano a essere presenti, e anche questo stilicidio di perdite. Teniamo conto che le previsioni parlavano di un 2,3 miliardi di euro, invece siamo arrivati a 3. Anche sul nuovo management, che Profumo ricorda sempre che lui è arrivato solo dal 27 aprile 2012 in carica come nuovo presidente di Monte dei Paschi di Siena, nei confronti del mercato e degli investitori non è una cosa molto rassicurante, perché sembra che ogni volta si apra fuori un cassetto ed esca qualcosa, ma che si aspettano che escano fuori dal cassetto gli scandali, o addirittura vengono denunciati, come abbiamo visto in questi mesi anche da report piuttosto che da trasmissioni giornalistiche, piuttosto che la banca faccia veramente un'opera di pulizia di colpo veramente incisiva, perché tutte queste notizie sembra che il bilancio si cerchi di adeguarsi a quello è un po' lo stesso ragionamento che si può fare attorno alla voce fuga dei depositi per alcuni miliardi. Io credo che appunto ci sia anche probabilmente una cifra più puntuale, più precisa, che però effettivamente il gruppo non vuole dare, perché non giustamente vuole dire, non vuole dire. Certo, io mi rendo anche conto che tipo di considerazione si possa avere da un annuncio di questo tipo, soprattutto in chi è ancora correntista, magari prodotti di investimento, l'obbligazione di Monte dei Paschi, ha comprato un prodotto di previdenza complementare. È chiaro che si centellinano, non so dove vada l'accento, centellinano, comunque in ogni caso si danno le notizie con grande cautela, però effettivamente se ci fosse forse un'operazione ancora più chiara, magari il mercato apprezzerebbe. In tutto questo la Consob ha vietato le vendite allo scoperto oggi e domani, Salvatore. Sì, un'operazione classica che si fa in questi casi, anche perché questa mattina già il titolo ha superato l'asticella del meno 10, quindi vedendo che dall'uovo di Pasqua usciva questa sorpresa, precautelativamente si è proceduti a questa operazione, che abbiamo visto che comunque non serve, ma per ritornare a un anno fa, quando fu fatto il bilancio di pulizia di Monte dei Paschi di 12 mesi fa, allora il titolo valeva circa 0,37-0,38, quindi puoi cercare di limitare i danni, ma se la banca e il management non riescono a raddrizzare la nave, operazioni di questo tipo hanno un effetto tutto sommato abbastanza ridotto, abbiamo visto nel tempo, ricordando quello che oggi vale Monte dei Paschi, quello che valeva un anno fa, o non, per non parlare di quello che valeva 5 anni fa. Però insomma oggi varrà 10 centesimi, ne varrà 15 o 20, in ogni caso quando il titolo oggi stava sprofondando in molti sono corsi all'acquisto, perché chiaramente hanno anche valutato l'opportunità di investimento. Infatti da meno 10 il titolo si è risollevato, come ribadisco, chiudendo a meno 2,81. Abbiamo detto tutto quello che c'era da dire oggi. Salvatore, hai qualche altra chicca su questa giornata? Ma Monte dei Paschi direi che per oggi abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire. All'assemblea sicuramente nel bilancio quando uscirà verrà reso pubblico nelle note, magari scopriremo altre cose interessanti. Forse ecco l'ultimo dato che sicuramente ha colpito è evidentemente anche la svalutazione forte del bilancio dell'attivo, cioè i crediti comunque concessi, ma questo riguarda in realtà non solo Monte dei Paschi ma molte delle banche italiane. Le rettifiche sui crediti continuano a essere molto elevate e questo sicuramente è un altro elemento. Eccoci ritrovati in diretta ancora, buonasera da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Focus Economia. Prima di andare avanti con i prossimi due temi con i quali concluderemo la trasmissione di questa sera, volevo fare una precisazione con un ascoltatore che si sta un po' accanendo oggi nel esprimere le sue riflessioni sulla modalità con cui trattiamo il tema Monte dei Paschi. Allora, io vi ricordo che c'è anche una persona che si è suicidata per quel fatto, per cui in primo luogo, proprio in memoria e in rispetto della scelta che ha fatto David Rossi, qua nessuno ha mai voluto fare nessun tipo di allarmismo. Abbiamo raccontato tutto quello che succedeva su Monte dei Paschi esattamente come hanno fatto tutti gli organi di informazione, e l'unica riflessione che ho fatto poco fa era quella relativa al fatto che comunque anche gli attuali vertici hanno fatto questa grande operazione di pulizia, di trasparenza, tanto che hanno pagato anche in maniera molto dura oggi in borsa dopo aver comunicato le perdite che nel 2012 la banca appunto ha dovuto mettere a bilancio, molto più sostanziose rispetto a quelle che erano state inizialmente preventivate. Detto questo, il tema è che secondo noi queste informazioni vengono centellinate al mercato, non si fa mai una comunicazione ufficiale definitiva su tutto. Questa è una considerazione mia e non ha nulla a che fare con le scelte che i correntisti fanno. È una banca di rilevanza sistemica, non per l'Italia, per tutta l'Europa, per cui c'è tutto l'interesse affinché tutto il mercato sia tranquillo sulla situazione di Monte dei Paschi. Pertanto questo è quanto io vorrei dire a questa persona che sta dicendo che stiamo continuando a fare accanimento, allarmismo su questa banca. Le consiglio di andarsi a ripescare le puntate di Salvadanaio fatte proprio all'indomani della scoperta delle operazioni Santorini ed Alexandria, e quanto appunto dicevamo, proprio per rassicurare tutti quanti. Detto questo, se alla luce di quello che accade, di un titolo che perde giorno dopo giorno e continua a navigare sui minimi, se una persona che ha un conto corrente in Monte dei Paschi non si sente tranquilla, non capisco per quale motivo da questa radio debba venire invece la raccomandazione no, li tenga lì perché non succede niente. Io sono assolutamente convinta che non succederà niente. La banca è stata anche aiutata dallo Stato con un prestito minimo rispetto ai salvataggi fatti in Europa per altre banche, e Sebastiano Barisoni ne ha raccontato 2 miliardi di volte tutto questo da questi microfoni, per cui anche su questo io mi sento tranquilla. Detto questo, non può essere una considerazione uguale per tutti, per cui uno deve essere anche libero di fare quello che ritiene, e i miliardi di fuga di depositi che la banca ha registrato in una cifra non quantificata appunto da Profumo e Viola è anche appunto un'indicazione dell'incertezza nella quale legittimamente molte persone si trovano. Per cui detto questo, sono sicura che continueremo a parlare di Banca Monte dei Paschi solo per le performance in borsa, che non sono per niente esaltanti, non di altri problemi. Detto questo, spero di aver chiarito una volta per tutte questo mio pensiero, e che magari, se sarà necessario, lo ribadirò anche altre volte. Adesso di che cosa parliamo? Parliamo un po' del mercato dell'auto in Italia, che per la prima volta dopo tanto tempo non ci racconta di performance devastanti. Allora, intanto saluto Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor. Gianprimo, buonasera e bentornato a Focus Economia. Buonasera Deborah. Allora, io direi che continuo ancora a tenere un po' il fiato in sospeso per i nostri ascoltatori, perché Per la prima volta dopo tanto tempo abbiamo buone notizie per il mercato dell'auto in Italia. Non c'è nessun segno più, quindi intanto sgombriamo subito il campo da possibili equivoci, però per una volta tanto non abbiamo un calo a due cifre delle vendite in Italia, appunto, di auto. Sì, è proprio così, Deborah. Abbiamo un calo in marzo del 4,90%. In febbraio e in gennaio avevamo avuto un calo intorno al 17%, quindi c'è, direi, un sensibile miglioramento, anche se il dato resta negativo. Un certo miglioramento si avverte anche dall'inchiesta congiunturale che noi facciamo sui concessionari, in quanto non segnalano una situazione buona, naturalmente, però la segnalano un po' meno negativa di gennaio e febbraio. Detto questo, però, va fatta subito una precisazione, che quest'anno c'è un giorno lavorativo in più in marzo, e che il confronto si fa con un marzo dell'anno scorso in cui c'era stato uno sciopero delle bisarche che aveva portato a un calo molto rilevante. Quindi c'è un segnale di miglioramento, ma non così forte come sembra. Comunque c'è, abbiamo un'altra. Sì, no, volevo dire quante immatricolazioni sono state fatte. 132.000 nuove immatricolazioni contro le 138.816 di un anno fa. L'altra considerazione qual era, Gianprimo? L'altra considerazione positiva è che Fiat guadagna il gruppo Fiat il 5,32%. E questo soprattutto per i risultati del gruppo Fiat, del marchio Fiat, che cresce del 13% per una serie di motivi, tanto perché non risente più dello sciopero delle bisarche come nel marzo 2012, ma non solo, perché buoni risultati, anzi ottimi, si hanno per la 500L, e poi risultati positivi hanno dato anche le promozioni che Fiat ha fatto in marzo. Quindi c'è un'altra timida rondine che vola in questo cielo di primavera. Tra l'altro, a proposito, ecco, degli incentivi Fiat, questo è stato anche il mese in cui c'è stata tutta l'operazione di incentivi ecologici, no? Può aver contribuito questa operazione, anche se non era un ammontare particolarmente significativo, peraltro ci ritorneremo anche nei prossimi giorni a Salvadanaio, ma può aver contribuito questa operazione anche nel fermare l'emorragia delle immatricolazioni? Direi sulle immatricolazioni in maniera poco significativa, perché i tempi tecnici non c'erano, però in maniera più significativa sugli ordini certamente, anche se, come tu hai detto, il potenziale di nuove immatricolazioni legato a questi incentivi è molto modesto, perché modesto è lo stanziamento. Infatti, oltre alle percentuali di vendita di casa Fiat, io non ho ancora il dettaglio da parte delle agenzie su come si sono comportate anche le altre marche, gli altri brand. Gianprimo, abbiamo qualche dato significativo? Sì, c'è Peugeot che ad esempio ha fatto un 13% in più, BMW un 12% in più, Mercedes un 6,46% in più, Volkswagen invece perde un 7, Lancia, che fa sempre parte del gruppo Fiat, come tutti sappiamo, perde l'11,75, Toyota il 13, Citroen il 17, Ford il 15, Alfa Romeo il 17, quasi il 18, Opel addirittura il 33, quindi direi il quadro è ancora, direi, molto molto serio per la maggior parte delle case. Che cosa c'è da ragionevolmente aspettarsi per i prossimi mesi, Gianprimo? Ci potrà essere qualche segnale per far continuare questa inversione di tendenza, che ancora non è particolarmente, c'è ancora il segno meno, lo dicevamo, ma se il credito non riparte, i prestiti finalizzati non ci sono sicuramente, se i redditi sono ancora molto bassi, non so quale altra calamita potrà battersi addosso al settore ancora. Ma come abbiamo scritto nel nostro commento che uscirà domani, sostanzialmente tutto è nelle mani del governo, perché dal governo dipende la diminuzione della tassazione sui carburanti, dipende la diminuzione delle tariffe delle assicurazioni, dipende il problema del credito e dipende soprattutto il rilancio dell'economia. Se queste condizioni, se il rilancio dell'economia non vi sarà, la nostra previsione per il 2013 è di 1.265.000 unità, un livello estremamente basso per un settore che vale il 13% del PIL ed occupa 1.200.000 persone. Su queste cifre c'è un commento che vedo rilanciato poco fa da parte di Federauto, che dice il meno 4,9% di marzo, se confermato come trend nei prossimi mesi, vedrebbe realizzarsi un mercato intorno ad 1.300.000 vetture immatricolate, il 35% in meno dei 2 milioni di pezzi considerati come livello minimo per la sopravvivenza della filiera automotive italiana. È così, Quagliano? Sì, è proprio così. Federauto è lievemente più ottimista di noi, molto poco, e però certamente 2 milioni è il livello minimo di sopravvivenza, il livello fisiologico per il mercato italiano e anche il livello di sopravvivenza della rete e di tutto il business. Tra l'altro, sempre proprio commentando l'apporto che dovrebbe dare lo Stato al rilancio di questo settore, Federauto osserva anche che il primo danneggiato da tutto questo tracollo dei volumi è proprio lo Stato, che oltre a perdere circa 3 miliardi tra IVA e tasse varie deve anche sborsare milioni di euro per sostenere centinaia di migliaia di lavoratori in cassa integrazione, per cui anche per questo lo Stato ha tutto l'interesse per poter rilanciare questo comparto. Ed eccoci ritrovati in diretta per l'ultimo approfondimento di oggi. Intanto ringrazio e saluto, e lo ringrazio doppiamente perché in precarie condizioni di salute, di ritorno da Cipro da pochissimi giorni, Roberto Buongiorno, Il Sole 24 Ore. Buonasera Roberto. Buonasera a tutti. Riesce lo stesso appunto a cimentarsi in questo nostro, non collegamento telefonico perché qui in studio con me, ma in questo aggiornamento appunto delle notizie che arrivano da Cipro. Allora, che cosa dobbiamo raccontare oggi? Che intanto ha riaperto dopo 15 giorni di chiusura la borsa. Abbiamo qualche notizia? Com'è andata? Ma adesso non ho guardato l'andamento, ma è stamattina era in ribasso di 2,5 punti in apertura. Sì, però è un ribasso che deve essere relativizzato, perché comunque i titoli delle grandi banche sono sospesi, per cui considerando l'impatto del sistema bancario sull'economia cipriota, insomma, il settore dei servizi è un andamento che non è così indicativo. Ecco. È una notizia importante, ma la più importante di oggi è che abbiamo avuto un rimpasto di governo velocissimo, perché si è dimesso il ministro delle finanze, ti lascio tutto l'onore di pronunciare i nomi, e ne abbiamo avuto subito un altro. Quindi là, nonostante la crisi pesantissima, si sbrigano molto di più che in Italia, insomma, a risolvere quantomeno i problemi di compagine di governo da rimettere in piedi. Cosa è successo nelle ultime ore? Sì, nelle ultime ore si è dimesso il ministro delle finanze Michalis Saris, scusate la pronuncia ma sono nomi greci, ed è stato diciamo sostituito da Haris Georgiadis, che era l'ex ministro del lavoro e anche vice ministro delle finanze. Perché si è dimesso Saris? Beh, diciamo che innanzitutto durante il periodo caldo le trattative che aveva fatto con il governo di Mosca, dove era stato inviato quando si pensava che la Russia potesse aiutare Cipro con un grande prestito, una linea di credito, erano clamorosamente fallite. Saris rimase più giorni del previsto e tornò a mani vuote, ma questo non è bastato. Quello che ha provocato le dimissioni di Saris è il suo ruolo primario avuto all'interno della Laiki Bank, ricordo il secondo istituto di credito del paese, di fatto in via di liquidazione. Ebbene, Saris era fino all'agosto del 2012 il presidente di questa banca, proprio nel periodo in cui la banca ha accusato le maggiori difficoltà. Allora, cosa è accaduto? A Cipro c'è adesso un clima rovente, tutti vogliono i responsabili, i capri espiatori o gli effettivi responsabili di questo crollo o di questi acquisti smodati da parte delle banche, dei titoli di Stato greci o dei prestiti. La Laiki, devo dire, che si era molto esposta nel concedere prestiti e mutui al settore privato greco. Immaginatevi lo stato di sofferenza che hanno questi. Non è ancora stato valutato correttamente. Quindi Saris ha ritenuto doveroso, in presenza di questa inchiesta, di rassegnare le proprie dimissioni. Un'assunzione, insomma, di responsabilità che chissà se in altri paesi appunto viene anche appresa come esempio, non difficilmente vediamo iniziative di questo tipo. Detto questo, non c'è solamente questa notizia. Mosca ha fatto sapere anche che correntisti russi non verranno aiutati appunto da parte della Russia stessa, quelli che sono stati un po' i protagonisti e i più penalizzati da questo prelievo forzoso che Cipro ha deciso negli ultimi giorni. Ma io mi dispiace confondere le acque, però cerchiamo di capire che la crisi cipriota è una crisi tuttora molto confusa, non che il sistema bancario prima di questa crisi godesse di una grande trasparenza. Allora, è sicuramente vero che i russi avevano depositi di almeno 19 miliardi, in cui se ne aggiungevano un altro decina di miliardi di altri tipi di operazioni su un'economia che ha un PIL di 17 miliardi. È anche vero però che non si sa esattamente quanti dei depositi russi abbiano lasciato il paese, sia prima dell'annuncio del pacchetto di salvataggio, perché comunque c'è stata un'emorragia di capitali a Cipro prima che venisse annunciato, e sia anche durante la chiusura. A Nicosia corre voce che molti conti correnti, voci non confermate, ripeto, però ripetute, superiori a 10 milioni di dollari, siano riusciti i correntisti a farli uscire in un certo modo dal paese. Ora, bisognerà vedere, attendere qualche giorno per capire quanto verranno penalizzati. L'impressione è che chi verrà veramente penalizzato saranno i ciprioti, che avevano conti correnti superiori ai 100.000 euro nella Laiki. Loro rischieranno di vedere 4/5 dei loro depositi mutilati. Certo. Cioè, uno che aveva 500.000 euro rischia di vederne 400-300.000 andati in fumo. E anche i correntisti della Bank of Cyprus, l'istituto che per essere salvato è stato fatto confluire tutti i prestiti garantiti della Laiki sotto i 100.000 euro, ma i correntisti della Bank of Cyprus che hanno più di 100.000 euro andranno incontro a una tassazione che poi non è una tassazione, magari vediamo più in seguito, comunque a misure così pesanti da far perdere loro il 40 se non addirittura il 60, c'è anche il rischio, quindi una pillola davvero amara per i correntisti. Avvelenatissima. Quello che mi chiedevo anche, mentre tra l'altro ti lasciavo commentare questa notizia, è anche per quale motivo poi Mosca dovrebbe aiutare le persone che sono andate a depositare i soldi altrove, come se io avessi dei soldi in Svizzera, la Svizzera ha qualche problema, il governo italiano deve andare a salvare i miei soldi che ho portato altrove. No, è un ragionamento peregrino. No, è un ragionamento sicuramente sensato, ma i rapporti tra Cipro e Mosca insomma sono abbastanza interessati. Se consideriamo che Cipro era il paese, il maggior paese investitore russo come investimenti privati, un'economia così piccola, abbiamo un'idea di come il denaro andasse dalla Russia e poi ritornasse in Russia via Cipro. Allora, intanto ci sono anche altre notizie che riguardano invece proprio la ricerca di possibili responsabili, sia di carattere civile che penale, appunto, di questa drammatica crisi che ha colpito l'isoletta. La Troica è al lavoro anche su questo, mi sbaglio? Ma sì, ci sono anche delle notizie abbastanza buone. Sì, adesso si valuterà, ma sarà titolare comunque il governo di Cipro a cercare di trovare i responsabili, i corresponsabili, se sono responsabilità civili, penali. Va detto oggi una notizia importante, che comunque la sensazione è che complice questo pacchetto di salvataggio, per molti ciproti sostengono che il rimedio sia peggiore del male, quindi l'economia di Cipro, che attraversava già una fase recessiva, si stimava del 3,5% prima del pacchetto, ora rischia di avere una spirale recessionista grandissima, si parla del 10% quest'anno, forse ancora di più l'anno prossimo, per 3 o 4 anni. Che cosa è accaduto oggi quindi? Che la Troica ha rinviato di 2 anni il termine in cui le autorità di Cipro devono soddisfare i requisiti necessari per il piano di salvataggio, ossia non più entro 2016, mentre 2018 dovranno centrare l'obiettivo dell'avanzo di bilancio del 4%. E poi sono stati ovviamente annunciati i termini del prestito che è effettuato da rimborsare. Vale a dire, Cipro avrà i famosi 10 miliardi di euro prestati dalla Troica, Cipro avrà tempo 10 anni in cui non dovrà pagare, poi a partire da 10 anni li dovrà pagare nell'arco di 12 anni con un tasso del 2,5%. Beh, ho l'impressione che la lezione greca sia servita, perché mentre quando le stesse problematiche riguardavano la Grecia da Bruxelles arrivavano sempre delle raccomandazioni negative, nel senso, se tu fai questo passo io ti erogo il nostro prestito, qua per Cipro invece forse è proprio memoria di quello che è successo in Grecia, gli si dà un po' più tempo già da subito e non si comincia subito nella trattativa estenuante che poi porta tutto il mercato europeo, no, a fibrillare come abbiamo visto già negli anni passati. Sì, anche perché senza creare panico, però la crisi cipriota è tutt'altro che risolta. Attenzione, perché la banca Bank of Cyprus è un istituto ancora in difficoltà, va calcolato ancora l'ammontare dei depositi esistenti dentro e ci sono probabilità, possibilità che si salvi, ma non è escluso che vada in crisi anche questo istituto. Insomma, è una fase di transizione molto delicata. Abbiamo altre notizie da raccontare relativamente alla giornata di oggi. Ritornerai presto intanto, se il giornale ti manda, dici tu. Vediamo. Che clima hai trovato, Roberto? Insomma, che tipo di, da questa esperienza anche là? Ma un clima di grande dignità da parte dei ciprioti. Il giorno dell'apertura delle banche ci si pensava assalto alle banche, manifestazioni popolari, proteste. I ciprioti sono comportati con una dignità sorprendente, tant'è che alcuni erano più giornalisti dei ciprioti e alcuni giornalisti internazionali famosi, adesso non faccio i nomi, erano quasi, sul loro volto era dipinto un'espressione, ma come? Di delusione, non succede perché non avevano nulla, niente da raccontare. Qua. In effetti i ciprioti però sono molto delusi dal fatto che debbano rimetterci quei propri risparmi per salvare un paese che è stato causato da delle azioni sconsiderate da parte delle banche. Le banche a loro volta hanno accusato comunque l'Unione Europea di aver fatto un haircut eccessivo nel 70% sui titoli di stati greci. Insomma, alla fine i ciprioti dicono: perché noi dobbiamo rimetterci? Perché? E poi la loro sensazione, è vero che sta crescendo un euroscetticismo all'interno dei ciprioti, però loro ci tengono a far parte, se non dell'Eurozona, molti anche dell'Eurozona, dell'Unione Europea, si sentono parte integrante e si sono sentiti un po' abbandonati in questo frangente. Grazie Roberto per essere stato con noi, buona grazie serata. Io ricordo solo un'ultima cosa, un'informazione di servizio per tutti gli interessati, noi ce ne occuperemo anche domani a Salvadanaio. Domani il Sole 24 Ore pubblica un inserto speciale di 24 pagine, guida la pensione integrativa, calcola quando conviene, quanto costa, e noi ce ne occupiamo anche domani alle 12.10 a Salvadanaio. Grazie a Barbara Bianchi, Mauro Del Corno per la collaborazione in redazione, stasera Pietro La Corte in assistenza tecnica. A tutti buona serata. Radio 24, la passione si sente.